Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Come dicevamo, lo spazio di questa settimana con la Caritas si allarga all'estero ed è nello stile appunto di Caritas fare questo, guardare la povertà all'interno, vicino a noi, vicino alle nostre case, ma anche non dimenticare il resto del mondo. Parliamo innanzitutto della Siria, un conflitto che rischia di allargarsi coinvolgendo altri stati, in cui al momento non trova spazio il dialogo costruttivo che più volte è stato invocato dal Papa per porre fine alle immani sofferenze della popolazione civile. La crisi umanitaria rimane gravissima sul fronte dei rifugiati, nei paesi limitrofi, anche sugli sviluppi interni. Morti sono più di 60.000, centinaia di migliaia di rifugiati, 2 milioni e mezzo le persone che hanno bisogno di aiuti. C'è carenza di cibo, di acqua potabile, di cure sanitarie. Viene da subito da fare un confronto, è già stato fatto, ma forse non abbastanza. 2 anni fa ci fu la cosiddetta Primavera araba, le manifestazioni, le rivoluzioni tra Egitto, Libia, parzialmente l'Algeria e la Tunisia, e sappiamo che cosa è successo, come poi i profughi sono arrivati via mare in Italia. Ovviamente dalla Siria è difficile che arrivino via mare da noi, quindi magari il problema ci tocca meno, però numericamente qui parliamo di numeri molto più grandi rispetto a quella situazione che abbiamo seguito, ci hanno fatto seguire più da vicino, anche per ragioni politiche e geografiche. Questa non è meno grave, anzi lo è di più, anche perché se ne parla meno. La Caritas italiana ha già inviato un contributo alla Caritas della Siria e a tutte le altre Caritas impegnate nell'accoglienza dei profughi. Si rilancia, dunque lo facciamo anche noi, l'appello per poter far fronte alle nuove pressanti richieste. Attualmente le Caritas Siria, Libano, Giordania e Turchia forniscono aiuti a oltre 100.000 persone. Soprattutto all'interno della Siria ci sono grandissime difficoltà e pericoli. I bisogni aumentano di giorno in giorno, dice Monsignor Antoine Audeau, che è il presidente della Caritas siriana. In Libano sono 40.000 le persone aiutate nella valle della Bekaa e a Beirut. Metà di queste 40.000 sono bambini. Ci sono 2 cliniche mobili per l'assistenza sanitaria. 2.000 famiglie vengono aiutate dalla Caritas Turchia con generi di prima necessità e servizi per cure sanitarie e assistenza psicologica. In Giordania 60.000 persone vengono assistite dalla Caritas ad Amman, Irbid, Zarqa, Madaba e Mafraq. Aiuti alimentari, coperte e stufe, perché anche lì è nevicato, fa freddo anche da quelle parti, sono zone anche di montagna. Si prevede di aiutare altre 25.000 persone, tra cui molte famiglie locali, ma ripetiamo, sono numeri importanti, imponenti, ma ancora minoritari rispetto ai 2 milioni e mezzo di persone che hanno bisogno di aiuti. Allora, la causale per dare qualcosa non serve molto, come sempre, ma qualcosa può aiutare tutti, è emergenza Siria, mandando l'aiuto direttamente agli uffici della Caritas diocesana oppure tramite le Caritas parrocchiali. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. E da questa sponda del Mediterraneo andiamo invece nel cuore dell'Africa, altra situazione che è emersa negli ultimi mesi, anche questa piuttosto dolorosa. Siamo in Mali, ovviamente, in Africa. Le Caritas del Sahel fanno un appello per un intervento immediato e prolungato. La situazione umanitaria anche qui è sempre più grave e parliamo anche qui di 700.000 profughi, quindi certamente numeri diversi rispetto a quelli che 2 anni fa sono arrivati dalle nostre parti. Anche qui il Papa aveva fatto un appello un paio di domeniche fa, chiedendo che cessassero le stragi di civili, che finisse ogni violenza e si trovasse il coraggio del dialogo e del negoziato. Rilanciamo anche in questo caso l'appello anche delle Caritas del Mali e di tutte quelle dell'area del Sahel. Cosa serve? Aiuti umanitari, come sempre, ma in una prospettiva diversa rispetto ad un impegno a medio e lungo termine, per per continuare a sostenere le popolazioni anche quando i riflettori delle televisioni si sposteranno da un'altra parte. Si sono accesi anche qui per un periodo piuttosto breve, poi siccome il Mali è piuttosto lontano da noi e adesso magari abbiamo altri pensieri, non ci si pensa tanto. Ci sono enormi difficoltà tra le quali cercano di muoversi le Caritas locali. Il piano di intervento attuale prevede la distribuzione ad oltre 45.000 persone di beni alimentari per 3 mesi, di tende, di teli, di coperte, di kit igienico-sanitari. Anche qui un sostegno psicologico per favorire la coesione e la pace tra la popolazione sconvolta e divisa dal conflitto. Più ci sono combattimenti, più la situazione umanitaria si aggrava di giorno in giorno. Solo nel mese di gennaio appena trascorso 9.000 nuovi profughi, in aggiunta ai 400.000 già presenti tra sfollati interni e rifugiati nei paesi limitrofi, perché poi succede anche questo, che c'è il paese coinvolto, il Mali, ma poi anche tutti i vicini di conseguenza. Si parla appunto di una stima di altri 300.000 per un totale di 700.000. Acqua, cibo, materiale per l'igiene, tende, coperte, medicinali sono le cose più urgenti. Rimangono le difficoltà di accesso in molte zone per il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza in tutto il paese. Ci sono gli spostamenti di migliaia di maliani in fuga continua dalle zone di combattimento in pieno deserto, in zone ostili che non hanno strutture sanitarie, con un accesso sempre più limitato al cibo e all'acqua. È stato chiuso il confine con l'Algeria a nord e poi ci sono i controlli sempre più serrati sul lato della Mauritania. Servono dunque corridoi umanitari per consentire la fornitura di aiuti essenziali alla popolazione civile, che ancora una volta è la principale vittima del conflitto. Anche qui c'è la causale, sempre tramite le Caritas diocesane o le Caritas parrocchiali. La causale in questo caso è crisi Sahel Mali. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.